Ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro quindicesimo, versi 307-621. L'innominato Pitagora sostiene la dieta vegetariana con l'argomento base che, siccome l'anima non muore mai, ma trasmigra di specie in specie, chi mangia animali rischia di mangiare i propri antenati. La sua torrenziale eloquenza è ora impegnata a esemplificare l'incessante mutevolezza del creato. Quanti esempi mi tornano in mente, esperiti in proprio o sentiti dire? Ne aggiungo due o tre. Che l'acqua non prende e non dà forme sempre nuove? La tua corrente, ammone cornuto, a mezzogiorno è gelata, ma è tiepida all'alba e al tramonto. Sento dire che gli atamani, quando la luna riduce al minimo il disco, accendono il fuoco con legna fradicia. C'è un fiume in terra di Ciconi che a berlo diventan di pietra gli intestini e riveste di marmo qualsiasi oggetto rasenti. Il Crati e il Sibari che delimita i nostri campi, danno ai capelli che bagnano una tinta fra l'ambra e l'oro. Ma a sbalordire di più sono i liquidi che non modificano solo il corpo, ma sono capaci di farlo anche con l'anima. Mai sentito parlare del turpestagno intestato a Salmacide o dei laghi d'Etiopia che chi fa tanto di dissetarcisi o diventa pazzo o crolla nel torpore d'un sonno stregato? Chiunque si levi la sete alla sorgente di clitore detesta il vino e da astemio non apprezza che l'acqua, sia che la sorgente contenga qualcosa di ostile al calore del vino, sia che l'indovino melampo, come dicono lì, liberate dalla pazzia le figlie di Preto con formule ed erbe, in quell'acqua versasse le scorie dei farmaci con cui le aveva guarite e quell'acqua conservi un profondo orrore del vino. Di effetto opposto figura un fiume di Macedonia che chiunque ne beva qualche sorso di troppo va poi barcollando, nemmeno si fosse ubriacato di vino. C'è un posto in Arcadia, gli antichi lo chiamavano Feneo, sospetto per l'ambiguo regime delle acque, che di notte fanno paura. Nottetempo berle è letale, di giorno son più che potabili. E così laghi e fiumi dispongono delle più disparate prerogative. Una volta l'isolotto di Delo flottava sui flutti, adesso sta fermo. Le Simplegadi terrorizzarono la nave Argo cozzandosi fra i cavalloni una volta. Ora stanno lì immobili e reggono a qualsiasi furia di venti. E l'Etna, che brucia dentro con le sue fornaci di zolfo, non è detto che bruci per sempre, se non è da sempre che brucia. Tant'è, se la terra è un essere vivente, con una serie di fessure che adopera per sfiatare le fiamme che ha dentro, succede che cambi canali e ogni volta che sente una scossa può chiuderne qualcheduno e aprirne qualchedun altro. Vuoi che venti leggeri, rintanati in antri profondi, facciano cozzare sassi con sassi e con una materia che include il seme del fuoco e a quegli scossoni di vampa, ma una volta sedati i venti, gli antri ritornino freddi? Vuoi che siano i bitumi a incendiarsi di colpo o lo zolfo giallo che brucia e rilascia un sottile filo di fumo? Comunque è chiaro che appena la terra, estenuata in un lungo volger d'anni, non offre più alimento congruo alle fiamme, la natura ingorda del fuoco, mancandole di che nutrirsi, arresa alla propria fame, diserterà quel deserto. Raccontano che a Pallene, nell'estremo nord, le persone si ritrovano il corpo velato di piume leggere, purché 9 volte si immergano nei fanghi del lago Tritone. Va da sé che io non ci credo. Alle donne di Scizia, peraltro, se unte di certi veleni, si dice succeda lo stesso. D'altra parte, se mette conto fidarsi di fatti provati, avrai certo notato come, decomposti dal tempo che passa o squagliati dal caldo, i cadaveri diventino animaletti. Accoppa un bel toro, fa tanto di seppellirlo e vedrai se dal putrido delle budella non nascono, è un dato di fatto, miriadi di api da polline, che al modo del padre toro si danno da fare nei campi e sgobbano per il domani. Sotterrato, un cavallo da guerra origina calabroni, stacca le chele ricurve al granchio di spiaggia e nascondi sottoterra il resto. Dal resto sepolto spunterà fuori un minaccioso scorpione con la sua coda uncinata. E il bruco della campagna, che non fa che tessere fili bianchi fra ramo e ramo, i contadini lo sanno, non muta e assume la forma della farfalla mortuaria. La melma contiene semini per generare ranocchi, ma senza piedi li genera, ma poi li dota di zampe adatte al nuoto e perché siano adatte anche a fare gran salti, dispone che quelle di dietro siano più lunghe di quelle davanti. Appena sgravato dall'orsa, l'orsacchiotto è un pezzetto di carne vivo appena, ma a forza la mamma di leccarlo gli imprime le forme del corpo, un corpo che riproduce più o meno il suo. E non hai mai visto i neonati delle api, tappati in esagoni di cera, come nascono corpicini privi di arti e le zampette le mettono dopo e dopo le ali? Ma non sapendo che questa è la realtà, chi potrebbe immaginare l'uccello di Giunone con quella sua coda tempestata di stelle, o l'uccello porta insegne di Giove, o i colombi di Venere e tutti i volatili, nascere tutti da un uovo? E c'è chi è convinto che quando la spina dorsale di un morto dentro la tomba suppura, il midollo diventi un serpente. Questo vale per animali generati da altri animali, ma ce n'è uno solo, a rigenerarsi da sé. Fenice, gli Assiri lo chiamano. Non si alimenta per vivere d'erbe o biada, ma solo di lacrime d'incenso e di succo di amomo. Quando ha compiuto i suoi 5 secoli d'esistenza sui rami d'un leccio o in cima a una tremula palma, il nido si costruisce con le unghie e col becco purificato e una volta fasciatolo con delicate spighe di nardo, di scaglie di cinnamomo e di mirra rossiccia, si sdraia e conclude il ciclo degli anni incendiandosi fra i profumi. A quel punto, dal corpo paterno raccontano che una piccola fenice rinasca per vivere lo stesso numero di anni. E appena l'età le consente l'energia che basta, solleva del peso del nido i rami dell'albero e devotamente si carica del suo nido, che insieme è il sepolcro del padre, e raggiunta per l'aria Eliopoli, città santa di Perione, lo depone davanti alle porte sante del tempio di lui. In questa leggenda, d'accordo, c'è qualcosa di portentoso, ma scusate, non è un portento la iena che cambia sesso e se il maschio la monta, da femmina che era, diventa maschio. E quell'altro animale che si nutre d'aria e di vento non riproduce i colori di tutto quello che tocca? L'India, vinta da Bacco, dio dei pampini, gli ha regalato la lince, la cui vescica, qualsiasi liquido emetta, diventa di pietra, raccontano, e congela al contatto dell'aria. Allo stesso modo il corallo, appena al contatto dell'aria, si irrigidisce, lui che dentro il mare non era che erba. Prima che io riesca a elencare tutto ciò che muta in natura, Febo Apollo nel fondo del mare tufferà i cavalli anelanti. Insomma, faremo notte. Sotto i nostri occhi, così i tempi non fan che cambiare. Questa nazione primeggia, quell'altra decade. Una volta grande per ricchezza e per uomini, tanto che ha avuto sangue da versare per 10 anni, Troia oggi è ridotta a uno spiazzo di vecchie macerie e non può esibire altro segno di fasto che non siano i sepolcri degli avi. Sparta è stata gloriosa, Micene era grande e potente, come la rocca di Cecrope e quella di Anfione, cioè Tebe. Ora Sparta fa pena e Micene la grande è finita. Di Tebe, patria di Edipo, oltre il nome, resta qualcosa? Di Atene, città di Pandione, resta qualcosa oltre il nome? E ora pare che grazie a Troiani stia per sorgere Roma, la quale a ridosso del Tevere, che nasce sull'Appennino, getta le fondamenta d'una grandissima storia. Città che cambia lei stessa nell'espandersi, e un giorno sarà capitale del mondo per quanto è grande. Si dice che questo dicano vati ed oracoli. Se ben ricordo, a un'Enea che piangeva e senza speranza assisteva al crollo di Troia, Eleno, figlio di Priamo, ebbe a dire: «Figlio di Dea, se ti fidi dei nostri presagi come giusto, sappi che Troia del tutto non finirà, perché tu finirai per salvarti. Ti aprirai col ferro e col fuoco un varco, portando con te i penati sottratti al disastro, vagherai finché non troverete una terra più amica, i penati e tu, della patria perduta. E vedo nipoti troiani che fondano una città più grande di quante ne esistano, né esisteranno, né siano esistite. Potenti signori la renderanno nei secoli potente. A farne però la signora del mondo sarà qualcuno del sangue di Iulo. Quando il mondo fruito ne avrà, ne godranno gli spazi celesti. Il cielo sarà la sua meta». Le parole di Eleno a Enea, che portava i penati, le so a memoria, ben lieto che cresca una città della nostra gente e che i greci abbiano vinto la guerra a vantaggio dei frigi. Ma non lasciamoci troppo trascinare fuori di pista e puntiamo al traguardo. Il cielo e tutto quello che ha sotto cambia, e cambia la terra e tutto quello che ha dentro. Noi stessi, parte del mondo, che non siamo corpi soltanto, ma anche anime al vento, possiamo accasarci anche in bestie feroci o rannicchiarci dentro certi animali domestici, animali che andranno rispettati e protetti, in quanto potrebbero ospitare l'anima d'un genitore o fratello o persona del nostro giro di amici o comunque d'una persona. Non ci ingozziamo di carne alla tavola di Tieste. Che orrenda abitudine pratica, e come lo vedi attrezzato a versare il sangue di un uomo, l'infame che sega la gola al vitello che è lì che muggisce e lui non lo sente nemmeno, capacissimo di sgozzare un capretto che mette vagiti come un neonato, o in grado di mangiarsela una gallina cui ha dato il becchime lui stesso. Che manca a un atto del genere per essere puro assassinio? Dove andremo a finire? Dopo aver tanto arato, che muoia di vecchiaia il povero bue. Non basta che la pecorella ci protegga dal vento del nord e che la capra si lasci spremere le mammelle. via reti, via pastoie, via trappole e trucchi crudeli, e basta ingannare uccellini con bastoni spalmati di vischio, e cervi, ingannare i cervi con gli spauracchi piumati, e nascondere ami ricurvi sotto esche bugiarde. Gli animali nocivi uccideteli, però ucciderli basti. Non metteteli in bocca, la bocca si nutra di cibi gentili. Assimilati i precetti di Pitagora, questi ed analoghi, dicono Numa tornasse in patria e, a richiesta di tutti, prendesse in mano le redini della nazione latina. D'una ninfa marito felice, orientato dalle camene, insegna riti santissimi a gente avvezza agli orrori della guerra e la converte ai negozi del viver civile. Quando poi, in capo a una lunga esistenza e a un lunghissimo regno, si spense, tutti, le femmine, il popolo e i senatori, piansero Numa, e sua moglie, lasciata l'urbe, si andò a nascondere nella boscaglia della valle di Ariccia, dove turbò con singhiozzi e con gemiti il culto di Diana, ivi instaurato da Oreste. Ah, le volte che le ninfe del bosco e del lago la pregarono di non farlo, tentando di consolarla. Ah, le volte che il figlio di Teseo, vedendola che piangeva, «Vuoi calmarti?» le disse. «Non sei la sola che debba lagnarsi della sorte. Considera quanti son toccati casi del genere e farai meno storie. Potessi sollevarti, facendoti qualche esempio, non dico il mio, o perché no, proprio quello. Avrai certo sentito parlare di un Ippolito morto ammazzato dalla credulità di suo padre e dalla menzogna infame d'una abietta matrigna. Tu puoi non crederci, io voglio provartelo, ma lui sono io. Tempo fa, dopo aver tentato invano di indurmi a violare il letto paterno, Fedra che fa? Capovolge le colpe, accusandomi di aver voluto la cosa che voleva lei, per paura che facessi la spia per l'offesa del rifiuto. E mio padre mi espelle innocente dalla città e mi scarica dietro l'orribile maledizione dell'odio. Io monto sul carro dell'esule e fuggo verso Trezene, e già corro lungo la spiaggia del golfo di Corinto, che il mare insorge e un immane cumulo d'acqua simile a una montagna si gonfia e cresce finché si fende in cresta ed emette uno strano muggito. A quel punto schizza fuori dal rotto dell'onda un toro con tanto di corna che, drizzato con tutto il torace nel morbido azzurro dell'aria, dalle froge e dalla bocca spalancata vomita mare. Terrorizzati i compagni, io solo, fin troppo appenato dall'esilio, non perdo la testa. Ma a quel punto i cavalli strattonano, puntano al mare col pelo ritto, le orecchie ritte, e impazziti dalla paura del mostro trascinano il carro a precipizio giù dall'alta scogliera. Invano io mi accanisco a tirare morsi coperti di schiuma biancastra e tendo le redini tutto buttato all'indietro. Ma la rabbia degli animali non avrebbe avuto la meglio se una ruota che vorticosa continuava a ruotare sull'asse non avesse cozzato in un tronco, sbriciolandosi, scaraventato giù dal carro, imbragato tutto nei finimenti, a vedermi strascinavo visceri vivi per terra, aggrappati agli sterpi i muscoli, membra in parte strappate, in parte bloccate, il tonfo sordo di ossa che si frantumano, l'anima stanca che esala da un corpo che non riconosci ogni pezzo che pezzo di corpo sia, ridotto tutta una piaga. E avresti, ninfa, il coraggio di paragonare la tua disgrazia alla mia, che ho veduto perfino i regni di tenebra e inzuppato il corpo a brandelli nelle acque del Flegetonte, e che senza gli ottimi farmaci di Esculapio, figlio di Apollo, non sarei tornato alla vita, vita che ho recuperato con le erbe e le arti di Apollo, ma Plutone l'ha presa male. Poi, temendo che quell'eccessivo favore a vedermi attizzasse l'invidia, Cinzia Diana mi fasciò d'un fitto nebbione, e per tutelarmi e permettermi di mostrarmi senza problemi, mi ha aumentato gli anni, non senza farmi una faccia irriconoscibile. A lungo si è chiesta se trasferirmi a Creta o a Delo, ma avendo scartato sia Delo sia Creta, mi ha piazzato qui. Nel contempo mi ha imposto di rinunciare a un nome che ricordasse il cavallo, Ippos in greco. Eri Ippolito, d'ora in avanti, mi disse, Virbio sarai. Da allora, Dio minore come un altro, vivo nascosto in questi boschi, addetto al culto di chi mi protegge. Ma i guai degli altri non portano sollievo al lutto di Egeria, la quale si squaglia in lacrime, accoccolata ai piedi di una montagna, finché, impietosita di lei, la sorella di Febo la cambia in una sorgente gelata e in un perpetuo scorrere d'acque ne stempera il corpo. Il portento impressiona le ninfe e il figlio, anche lui, della Amazzone sbalordisce, non meno di quanto il contadino etrusco sbalordisse, vedendo nel centro del campo la zolla fatidica muoversi, senza nessuno che la spostasse da sé, e smettere d'essere terra, e assumere forma di uomo, e aprire la bocca recente al vaticinio. Gli indigeni l'hanno chiamato Tagete, ed è stato il primissimo lui ad insegnare agli etruschi come si legge il futuro. E uno stupore del genere colse Romolo, quando si accorse che la lancia piantata sul colle palatino metteva foglie, dritta, ma non sulla punta di ferro, sulle radici novelle, non più giavellotto, ma pianta, che sopra gli attoniti astanti versava con rami tenaci ombre inattese. O Cipo, quando sull'acqua del fiume si vide le corna, sì che le vide, e convinto trattarsi dell'illusione d'un riflesso, portandosi in capo la mano, quel che vedeva toccò. Smise allora di prendersela con i suoi occhi, ed essendo reduce dall'aver appena sconfitto il nemico, si bloccò, levò gli occhi e le braccia al cielo e disse così: «Io non so che cosa, celesti, presagisca questo prodigio. Se qualcosa di lieto, sia lieto per la patria e il popolo nostro, se di minaccioso per me». Attrezzati altari di zolle per conciliarsi gli dèi, vi bruciava sopra profumi, sopra versavavi vino e ammazzavavi pecore sopra per ricavare un responso da quel trepidare di viscere. Allora una ruspice etrusco, che le esamina come si deve, in quelle sospetta il presagio d'un gran movimento di eventi, ancora oscuro però. Ma appena leva lo sguardo aguzzo dai visceri ovini alle corna di Cipo, grida: «Salve, maestà! Proprio a te e a quelle tue corna, infatti, ubbidiranno, Cipo, la terra e le rocche del Lazio, purché tu rompa gli indugi e ti sbrighi a passare porte spalancate, è il decreto dei fati. Una volta accolto in città, sarai re. E re resterai per tutta la vita, tranquillo». Fa un passo indietro e, stornando dalle mura di Roma lo sguardo, tetro pensa: «Lontano da me, lontano tengano i cieli questa roba da me. Mille volte meglio che io passi la vita in esilio piuttosto che il Campidoglio mi veda re». Ciò detto, convoca subito il popolo e gli onorevoli senatori, non senza aver prima schermato le corna col lauro della pace. Poi monta sul terrapieno che gli hanno attrezzato i suoi bravi soldati, esperisce le invocazioni di rito e c'è uno qui che se non lo bandite dalla città sarà re. Non vi dico chi sia, un segnale ve lo dirà. Ha le corna in testa. L'augure fa sapere che egli, entrato a Roma, vi ridurrà per legge a sudditi servi. E sarebbe potuto già entrare per le nostre porte aperte se non glielo avessi impedito io, quantunque nessuno gli sia più vicino di me. Proibitegli voi di entrare, Quiriti, o quando lo meriti, caricatelo di catene o stornate i vostri timori uccidendo il fatale tiranno. Come fanno le chiome brevi dei pini quando scirocco ci soffia torbido dentro, o come fanno le onde del mare dentro l'orecchio di chi da lontano le ascolta, così mormora il popolo. Ma in quel rumore confuso di parole, intanto trambusto, una voce spicca. «Chi è?» Scrutano tutti le fronti di tutti in cerca di corna. E Cipo riattacca. «Quello che cercate, eccolo qui!» E sfilatasi dalla testa la corona, nel disappunto generale, ostende la coppia di corna che lo identifica. Tutti abbassano gli occhi, ma poi son costretti a vederla, la testa di quell'uomo ridotta in quel modo, incredibile davvero. Ma non tollerandolo, senza un'insegna d'onore, tornano ad insignirlo della sua corona trionfale. Non potendo più mettere piede in città, ti sei visto assegnata dai maggiorenti in omaggio, Cipo, tanta campagna quanta riuscivi a circoscriverne dalla mattina alla sera con un aratro tirato da un paio di buoi. E sulle porte di bronzo si scolpiscono corna ad immagine delle tue portentose per perpetuarne il ricordo nei secoli.